Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. I primi impianti eolici, dopo 10 anni e più di onorato servizio, cominciano ad accusare i primi segni di vecchiaia. Se ne è parlato Ecomondo a Rimini, dove i principali operatori dell'eolico in Italia hanno firmato insieme a Legambiente e ad ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la carta del rinnovamento eolico sostenibile. Interessati da questa operazione potrebbero essere circa 2.500 megawatt di impianti sui circa 9.000 installati in tutta la penisola, che appunto potrebbero essere sostituiti con tecnologie più moderne oppure potenziati. Questa del revamping dei vecchi impianti eolici è una partita importante per le ragioni che ci facciamo spiegare subito da Simone Togni, che è presidente dell'ANEV. Buonasera Togni. Buonasera. Allora, senta, perché questi primi impianti e soprattutto, io direi, le location su cui sorgono sono così preziosi? Ma innanzitutto perché chiaramente sono stati realizzati in posti dove il vento c'è, era stato misurato a suo tempo, e poi nel corso di questi anni si è potuto constatare come effettivamente fosse un vento non solo importante ma oltretutto utile alla produzione elettrica. Inoltre c'è da dire che l'altro aspetto positivo è quello del fatto che sono siti che già oggi, ospitando degli impianti, hanno comunque realizzato quelle infrastrutture, sia le connessioni elettriche, che sono spesso un problema grave, questo delle connessioni, a volte è difficile averle, no? Sicuramente sono criticità che portano via molto, molto tempo e anche dei lavori, e quindi già averle disponibili comporta una semplificazione dell'attività di sviluppo. E infine c'è chiaramente quello dell'accettabilità degli impianti stessi, come noi abbiamo potuto rilevare più volte nel tempo, anche con sondaggi mirati, i siti dove sono già presenti dei parchi eolici hanno un'accettabilità della popolazione che supera l'82% contro una media del 78-79% dei siti, diciamo, dove gli impianti già non esistono. Ok, d'accordo. E poi alla fine, tra l'altro, basta dei piccoli gruppi a volte che si oppongono per complicare moltissimo le cose. Lì è difficile che si opponga a qualcuno quando ormai tutti hanno accettato bene o male questi impianti. Anche perché con l'occasione del revamping, e qui entriamo nel tema di questa carta per il rinnovamento eolico sostenibile, voi avete assunto degli impegni che potrebbero ulteriormente ridurre l'impatto anche ambientale di questi sistemi. Ecco, appunto, quali sono gli impegni che vi prendete firmando questa carta? Ma la cosa importante è che gli operatori, in maniera molto, secondo me, coscienziosa e matura, stanno facendo questo passo, sottolineando come un rifacimento intelligente di questi siti comporta l'utilizzo di tecnologie nuove e quindi più efficienti, ma soprattutto consente, visto che la taglia media degli aerogeneratori è cresciuta molto, di sostituire, facendo un esempio, 10 macchine installate appunto 15 anni fa con 3 macchine di quelle più recenti. E quindi ovviamente l'impatto paesaggistico, che poi è l'impatto principale di queste tecnologie, viene ridotto da un terzo a un quarto, e questo ovviamente facilita anche quella che è poi la fruibilità delle zone per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico. Ecco, che altri impegni vi assumete con queste carte? Una è questa, per esempio, sfoltire un po', no, queste selve di pali, sì, che in qualche caso ci sono. Sì, lo sfoltimento, diciamo, la riduzione dell'impatto paesaggistico, poi c'è chiaramente quella che sono le misure di mitigazione che nel tempo sono state utilizzate, perché queste macchine di nuova generazione, oltre ad avere una maggiore efficienza, comportano anche una riduzione significativa di quelli che sono il rumore degli impianti stessi. Il rumore, anche i colori, banalmente, oggi si usano dei colori molto neutri che tendono a confondersi col cielo, no? Le tecnologie nuove consentono di verniciarli con colori e vernici antiriflettenti, con colori che sono abbastanza neutri, anche se tuttavia da questo punto di vista bisogna dire che poi bisogna sempre far, diciamo, i conti con quelli che sono invece le prescrizioni degli enti di aviazione, che ci invece impongono che si vedano. Esattamente. Quindi è sempre l'insieme, bisogna sempre, certo, contemperare, certo, un insieme di richieste. Senta, che cosa chiedete in cambio? Ma io innanzitutto segnalo che la necessità di questa opera deriva anche dal fatto che gli impegni che stiamo andando a prendere a Parigi con la COP21 ci indicano degli obiettivi minimi di produzione rinnovabili. Questi impianti, se non rifatti, smetteranno di produrre perché non saranno più efficienti e convenienti economicamente. Noi come imprese, lanciando questa iniziativa, chiediamo di avere non incentivi, su questo vorrei essere chiaro, non ce n'è più bisogno per queste tecnologie di impianti, non abbiamo bisogno di nessun incentivo in più, anzi andiamo a ridurre chiaramente il peso sulla bolletta, ma dall'altra parte abbiamo necessità assoluta di avere una semplificazione amministrativa profonda, che tra l'altro è una delle pietre miliari del governo Renzi, quella della semplificazione, e noi auspichiamo, speriamo, sì, speriamo. Almeno in questo settore, quello delle rinnovabili, che comunque continua a dare sviluppo e occupazione nel nostro paese, quindi insomma, semplificazione. Chiedete che non vi mettano i bastoni tra le ruote, per esempio c'è stato un caso recentemente in cui una grossa compagnia dell'eolico voleva sperimentare 3 pale nuove su una torre e ha dovuto discutere per 1 anno e mezzo perché non gli togliessero l'incentivo su tutto il parco eolico. Questo per dare un'idea delle complicazioni che possono sorgere, che a volte sono veramente tutte burocratiche. Va bene, grazie Simone Togni, buon lavoro. Grazie, buonasera. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani.